Mario Corrado non c'è, giusto? No. Azzone Andrea? Sì. Azzone Andrea? Ben Sabeo? Dov'è? E Bertoli Carlo non c'è? Biscotti Emma? Carmelo Michele, l'ho visto? Lì. Coio Paro? De Niro? Io. Da qua. Sei qua. Emma Conte? Emma Conte? Emma Conte c'è? Mattia? Luisa? Luigi? Viola? Alice assente, Caterina, Simone assente, Carlotta, Andrea, Giulia, l'ho vista la Giulia, dov'è la Giulia? Ah, ciao. Giulia, Noemi, Giulia e Peter. Ok.